Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 21 liste per 12 posti a Roma, presentate le candidature per il voto del 25 settembre in Friuli Venezia Giulia, da eleggere 8 deputati e 4 senatori, nessuna sorpresa tra i nomi delle ultime liste consegnate ieri. La donna che ha travolto il quindicenne di Porcia aveva un tasso alcolico 4 volte superiore al consentito. La militare americana rimane agli arresti domiciliari nella base di Aviano, potrebbe essere giudicata nel suo paese. Rotta balcanica, strutture strapiene, decine di migranti in arrivo ogni giorno del confine orientale, il caso dell'Abdi Camposacro sul Carso Triestino con quasi 300 persone. Scuola, il nodo dei presidi, 20 nuove immissioni in ruolo non bastano a risolvere il problema delle reggenze multiple, ma a preoccupare i sindacati c'è anche la mancanza confermata del personale Covid. Paluzza, il comune contro la nuova stazione di pompaggio della SIOT, chiesto il rinvio della conferenza dei servizi e il riesame dell'impatto ambientale dell'intero progetto. Infestazione da ilanto, nuovo allarme per il Carso Goriziano devastato dagli incendi, una pianta che si propaga con incredibile rapidità senza alcuna utilità per l'uomo e che potrebbe arrivare anche sui terreni agricoli. Giorgia Soleri all'Aquileia Young Festival, l'influencer è il nome di richiamo in un appuntamento dedicato ai giovani, alla sostenibilità e al sociale. La vita quotidiana diventa rap al Castello di Udine, la musica e le parole di Bresh, rapper genovese che si ispira a Fabrizio De André. 7:19 minuti e 46 secondi in questo istante. Buongiorno da Maria Spezia e Andrea Vardanega, che condurranno questa prima edizione del giornale radio regionale. Il tempo, nuvolosità variabile sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 6, Trieste 21 gradi e mezzo, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 25 gradi, a Udine e Gorizia abbiamo 19 gradi e mezzo, a Pordenone 18, in montagna Tor Mezzo 16 gradi e mezzo, Forni di Sopra 14, Tarvisio 12, Piancavallo 10 gradi e Sappada 9, sullo Zoncolan abbiamo 11 gradi e sull'Ossare 9 gradi e mezzo, a Lignano abbiamo 24 gradi, a grado 23, la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale: in mattinata avremo cielo in prevalenza nuvoloso, dal pomeriggio cielo poco nuvoloso o variabile per la prevalenza di schiarite, da domani tornerà l'anticiclone e il sereno per vari giorni. Sono 21 le diverse liste, comprese quelle delle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, ciascuna con 4 forze politiche, che hanno presentato la documentazione necessaria a partecipare alle elezioni del 25 settembre per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica in Friuli Venezia Giulia. Le porte dell'ufficio elettorale, costituito presso la Corte d'Appello di Trieste, si sono chiuse alle 20 di ieri. Gli ultimi a presentare i loro candidati sono stati Più Europa, il Partito Animale lista e la lista Alternativa per l'Italia No Green Pass. Nel pomeriggio di ieri la presentazione dell'ultima lista di centrodestra, quella della Lega. Nessuna sorpresa per il Carroccio, che schiera come capolista Vania Gava la Camera, con Graziano Pizzimenti in seconda posizione e Marco Dreosto al Senato. Nella coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia ha messo in testa le liste Nicole Matteoni e Luca Ciriani, Forza Italia Sandra Savino e Franco Dalmas, Noi Moderati Maurizio Lupi ed Enzo Bortolotti. Nell'alleanza di centrosinistra, il Partito Democratico ha posto al primo posto del listino, scusate il bisticcio di parole, Deborah Serracchiani e Tatiana Roiz. Capolista per Più Europa sono Monica Balbinotta alla Camera e Stefano Santarossa al Senato. Impegno Civico non ha ancora diffuso i nomi dei propri candidati. Verdi e Sinistra si affidano a Serena Pellegrino, capolista alla Camera, e Tiziana Cimolino al Senato. Azione Italia Viva propone come capolista Ettore Rosato, con Isabella De Monte al secondo posto per la Camera e Nicola Turri al Senato. Anche qui nessuna sorpresa. Ieri hanno presentato simboli e candidati anche Noi Moderati, Mastella Noi di Centro, che corre in autonomia, e Forza Nuova. Si aggiungono alle liste che hanno completato le formalità nel primo dei due giorni previsti Movimento 5 Stelle, che ha come capilista Stefano Patuanelli al Senato e Luca Sutta alla Camera, Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, Vita, Gile Arancioni, Per l'Italia con Paragone e Pensiero e Azione. La validità dei documenti presentati sarà oggi al vaglio dell'ufficio elettorale. Le candidature diventeranno quindi ufficiali e saranno trasmesse a Roma. Con il voto del 25 settembre saranno eletti a Roma 12 parlamentari dal Friuli Venezia Giulia, di cui 8 alla Camera e 4 al Senato. Un terzo degli eletti proverà dai collegi uninominali, per i quali i partiti tra loro alleati hanno dovuto proporre un nome unico. Diversi candidati legati a Friuli Venezia Giulia, candidati anche o solo in altre regioni. Torna in politica Roberto Menia, capolista al Senato in Liguria per Fratelli d'Italia. Stefano Patuanelli sarà anche in Campania e Lazio per i 5 Stelle. Deborah Serracchiani anche in Piemonte per il PD. Ettore Rosato in Campania per Azione Italia Civica e Stefano Puzzer per Paragone in Emilia Romagna. Il dettaglio di tutte le liste e di tutti i candidati resi noti finora dalle forze politiche sono sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg. Chiusa questa ampia pagina dedicata alle elezioni, torniamo alla tragedia di Porcia. Era sotto l'effetto dell'alcol la donna militare di stanza alla base di Aviano che ha travolto e ucciso un ragazzo di 15 anni due notti fa. Per lei la possibilità di essere giudicata nel suo paese in base ai trattati in vigore tra Italia e Stati Uniti. Il comandante americano della base ha voluto esprimere alla famiglia e a tutta la comunità il proprio cordoglio. La donna rimane agli arresti domiciliari all'interno della base. Era sotto l'effetto di sostanze alcoliche, non di droghe, la soldatessa americana che ha travolto e ucciso Giovanni Zaniar, 15 anni, a Porcia. Sono infatti stati resi noti i risultati degli esami tossicologici effettuati sulla giovane in ospedale subito dopo l'incidente, da quali si è potuto evincere che la ventenne aveva un tasso alcolemico di 2,09 grammi per litro, 4 volte oltre il limite consentito. La procura di Pordenone ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto in flagranza di reato. L'udienza dovrebbe svolgersi tra domani e mercoledì. La ventenne, secondo una nota del procuratore capo di Pordenone Raffaele Tito, ha aumentato la velocità oltre il limite consentito in prossimità della rotonda dove si trovavano Giovanni e i suoi amici. Per questo motivo ha perso il controllo del veicolo, urtando prima sul cordolo che divide la carreggiata con la pista ciclopedonale e poi invadendo quest'ultima, colpendo il quindicenne. La soldatessa al momento si trova agli arresti domiciliari all'interno della base USAF di Aviano e in tarda mattinata il comandante della base, sollecitato dal sindaco di Porcia, ha incontrato il primo cittadino. Ted Clark, comandante della base USAF di Aviano. I'm here to express our condolences. Siamo qui ad esprimere le nostre condoglianze al sindaco e alla città di Porcia, ma soprattutto alla famiglia che sta vivendo questa tragica perdita, questa esperienza, e siamo qui perché voglio spendere del tempo per costruire la comunità, un'unica comunità. Marco Sartini, sindaco di Porcia. Insieme abbiamo voluto portare il cordoglio nuovamente alla famiglia per quanto accaduto, anche lui è molto dispiaciuto e insieme vorremmo fare delle attività per cercare di migliorare il rapporto che c'è tra Italia e Stati Uniti nel prossimo futuro. Mi ha comunicato che la ragazza è tenuta agli arresti all'interno della base ed è sorvegliata 24 ore al giorno. Loro sono un po' riservati ma hanno messo a completa disposizione tutto quello che possono fare con i nostri carabinieri e le nostre autorità italiane. Intanto proprio il luogo dell'incidente si è trasformato in un piccolo altarino, sono diversi i lumini, i messaggi e i fiori lasciati da chi conosceva Giovanni. Porcia, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Continua l'afflusso di migranti sulla rotta balcanica e sono sempre più sotto pressione le strutture di accoglienza. In quella di Camposacro, nata come spazio per la quarantena da Covid, sono ormai ospitate quasi 300 persone. Un nuovo bando per reperire ulteriori 50 posti è stato lanciato dalla prefettura, ma il sistema si avvicina sempre più al livello di guardia. Da un paio di mesi un centinaio di immigrati dormono nel prato sperando che non piova. Accanto a loro 20 tende colme di altri giovani, circa 170. Succede al centro di accoglienza straordinaria a Camposacro, vicino Prosecco, allestito nel campo scout. Ospita 3 volte tanto la sua naturale capienza. Quelli nelle tende non sono più fortunati, dentro fa caldissimo e si stringono in 11, dove i posti in realtà sarebbero solo 6 per la normativa antincendio. Passano la giornata a lavare a mano i vestiti, scarpe, spazzano la tenda, fanno la fila per le poche docce disponibili. Arrivano tutti da Pakistan e Bangladesh, pochissimi gli afghani. Al sistema ufficiale dell'accoglienza preferiscono la rete creata fuori regione negli anni dai loro connazionali. In questi giorni a servire i pasti nella mensa del campo sono arrivati anche gli scout da Brescia, ma chi gestisce l'accoglienza per conto della prefettura è ICS, il Consorzio di Solidarietà, insieme a Caritas, che si occupa del vestiario e di preparare i pasti. Il direttore Don Alessandro Amodeo. Caritas Trieste fornisce più di 1500 pasti espressi al giorno. Questi 1500 pasti vanno a coprire pranzi e cene, vanno a coprire sia gli accolti del Comune di Trieste con i quali siamo convenzionati, sia gli accolti convenzionati con la prefettura e anche tutte le persone che vengono ritrovate per strada dalla polizia. La rotta balcanica non si è mai fermata. A Trieste ci sono circa 40 rintracci, l'equivalente di un pullman al giorno. In centro città, di fronte alla stazione, c'è il rifugio di quelli che non trovano posto. È Piazza Libertà, piantonata tutti i giorni da numerosi uomini di polizia e carabinieri, ma qui non ci sono disordini. I migranti non vogliono guai, solo il tempo per guarire le ferite e qualcosa da mangiare. Il sistema dell'accoglienza è al collasso. Conscia di questo, la prefettura prova a tamponare e pubblica un bando da 880.000 euro per farsi carico di massimo 50 richiedenti asilo, sperando che qualcuno manifesti interesse entro lunedì. Basterà? Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo alla cronaca. Attorno alle 13.30 di ieri i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato a Villesse in via Isonzo sul terrazzino al terzo piano di una palazzina. Una persona è stata portata in ospedale per accertamenti. Gli abitanti del piano colpito dalle fiamme sono stati fatti sgomberare. L'allarme è partito da dei passanti che hanno notato fumo e fuoco levarsi dall'abitazione. Carabinieri mobilitati per garantire, assieme alle altre forze di polizia, vacanze tranquille a chi ha scelto Lignano. Nell'ultimo mese sono stati svolti 250 servizi di pattuglia con il controllo di 1000 veicoli e l'identificazione di oltre 2000 persone, 43 le violazioni al codice della strada rilevate, compresi 11 casi di guida in stato di ebbrezza alcolica e 4 di guida sotto l'effetto di stupefacenti. In questi casi i conducenti sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Controllati anche 33 esercizi pubblici con il conseguente accertamento di 9 violazioni, di cui 5 di rilevanza penale e 4 di carattere amministrativo per violazioni alle norme in materia. In particolare, su segnalazione dell'arma, il Comune ha disposto la chiusura di 2 centri benessere. I controlli del NAS, il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Udine, hanno evidenziato a carico dei titolari la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per vendere al dettaglio generi alimentari all'interno delle attività. Ancora cronaca, 2 escursionisti spagnoli di 46-40 anni che avevano smarrito il sentiero sulle montagne di Forni di Sopra sono stati recuperati ieri dal soccorso alpino. I soccorritori, insieme al personale della Guardia di Finanza, sono arrivati a bordo dell'elicottero della Protezione Civile fino a quota 1900 metri, dove la coppia di spagnoli aveva smarrito il sentiero. Dopo aver deviato dal tracciato principale, che sale dal rifugio Flybank Pacherini verso la Forcella dell'Inferno, i 2 si sono spaventati e hanno chiamato il numero di emergenza 112. Con sé avevano anche il loro cane Labrador. I 2 escursionisti sono stati raggiunti a piedi dai soccorritori, portati in quota dall'elicottero e quindi assicurati e calati con le corde, infine con l'elicottero riportati a valle. Le 7.32 minuti, a poche settimane dal rientro in classe, in Friuli Venezia Giulia arrivano 17 nuovi dirigenti scolastici che prenderanno servizio in altrettante scuole del territorio. Altri 3 arriveranno nei prossimi giorni, 20 nuove immissioni complessive, ma resteranno comunque alcune scuole in reggenza. Ma a preoccupare i sindacati c'è anche la mancata conferma del personale Covid. Non sarà assolutamente semplice. Le ultime raccomandazioni della dirigente scolastica regionale Daniela Beltrame e poi l'assegnazione della scuola che andranno a dirigere. E inizia così la nuova vita dei 17 dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia che hanno appena firmato l'immissione in ruolo. La regione doveva avere 11 nuovi dirigenti, il Ministero ne ha concessi 20, 3 hanno rinunciato ma verranno scorse le graduatorie. 16 scuole comunque resteranno scoperte e ci saranno le reggenze. 10 nuovi dirigenti assegnati tra Udine e provincia, 4 all'area pordenonese e 3 a Gorizia. Le scuole con dirigenza vacante sono soprattutto gli istituti comprensivi. Tante le persone arrivate da fuori regione, come Nicolò Basile di Palermo. Mi aspetto di fare grandi cose, insomma, di realizzare tutta una serie di progetti che da docente, insomma, ho realizzato, avrei voluto realizzare, quindi insomma. Da tutti uno? Ma sicuramente sull'inclusione, il tema dell'inclusione sarà fondamentale e centrale. Il concorso per tutti risale a 5 anni fa, ma il posto arriva solo ora. Francesca Zamar, dirigente dell'Istituto Comprensivo Randaccio di Monfalcone. Da un lato ero così un po' triste di non essere entrata 3 anni fa con i primi messi in ruolo. Dall'altro lato ho detto per fortuna non sono entrata 3 anni fa, per cui mi sono risparmiata, diciamo, il periodo clou della pandemia. Secondo le ultime disposizioni, a settembre niente più mascherina in classe e tornano anche i docenti non vaccinati, ma mancherà il personale Covid. Ugo Previti, UIL Scuola. Si parla di areggiare le scuole, aprire le aule, la distanza, il distanziamento. Chi lo fa? 16 Beltrame purtroppo resteranno scoperte ben 300 cattedre per insegnanti di sostegno, manca personale con la qualifica e quindi si ricorrerà a supplenze, verranno invece regolarizzati oltre 2.200 insegnanti, pochi i posti a cui verranno assegnati supplenti. Adriano Zonta, CGL Scuola. No, è impossibile niente supplenza a settembre, perché il sistema messo in piedi non garantisce questo. Gli uffici stanno lavorando alacremente per riuscire a fare questo. Se come lo scorso anno finiamo le nomine annuali a novembre. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo a parlare dell'oleodotto Siot. Il comune di Paluzza, insieme a Legambiente, ha formalmente chiesto il rinvio della conferenza dei servizi legata al progetto di realizzazione, appunto a Paluzza e Cercivento, di una nuova stazione di pompaggio del greggio e di impianti di cogenerazione. In particolare, l'amministrazione comunale ha espresso la propria contrarietà al progetto. Uno studio dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia presenterebbe infatti dati in contrasto rispetto a quelli forniti da Siot in merito all'efficientamento e al risparmio energetico. Per questo il Comune chiede che sia fatta chiarezza anche in merito al riconoscimento di pubblica utilità del progetto, che ha permesso di bypassare la normale procedura di valutazione di impatto ambientale. Chiediamo alla Regione e a Siot un tavolo di confronto su questi temi, dice il sindaco di Paluzza Massimo Mentil, che sia riconsiderato l'impatto ambientale dell'intero progetto e che il territorio sia finalmente coinvolto e ascoltato. E adesso parliamo dell'infestazione da elanto che minaccia il Carso Goriziano dopo gli incendi delle scorse settimane. Si tratta infatti di una pianta seriamente infestante che si propaga con incredibile rapidità e che rischia di occupare, oltre alla landa devastata dalle fiamme, anche i terreni agricoli. Un allarme confermato dagli esperti dell'università. È possibile fare un'ipotesi di quale carso vedranno i nostri figli fra 20 anni, 30 anni? Beh, fondamentalmente dipende se ce ne prenderemo cura o no. E cosa vogliamo ottenere da questo territorio? A minacciare la bellezza del Carso non soltanto dal punto di vista naturalistico è l'ailanto, pianta distruttiva, invasiva, alloctona, introdotta circa nel 1750 dal sud-est asiatico, un pericolo per la biodiversità delle zone colpite e distrutte dagli incendi di questa estate di fuoco, in particolare sul Carso Goriziano, al confine con la Slovenia, ma anche nei terreni agricoli. Giuliana Renzi, Biodiversità, Regione FVG. E sarà importantissima anche la collaborazione di tutti, dei proprietari dei terreni, perché chiaramente sul Carso la maggior parte dei terreni sono privati e quindi è necessario coinvolgere, veramente sensibilizzare tutti su questo problema, che potrebbe essere un problema di difficilissima gestione in futuro. Quindi quanto più si riesce a prevenire l'insorgere appunto di nuove colonizzazioni di ailanto, tanto meglio sarà per il futuro del territorio. Una pianta che non rappresenta in nessun caso una risorsa. La necessità è quella di intervenire al più presto, secondo un programma che la Regione sta per predisporre anche con l'aiuto dei tanti proprietari di terreni nel Carso. Alcune macchie di verde nelle zone bruciate dalle fiamme sono la speranza per una veloce ricrescita della vegetazione. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 7.37 minuti spazio ad alcuni appuntamenti di oggi. L'opinionista e modella Giorgia Soleri, autrice del libro La signorina nessuno, parteciperà all'evento Yellow 4.0 della Quelea Young Festival, manifestazione nel segno dell'attenzione alla sfera giovanile, alla sostenibilità e al sociale. Alla serata, che offrirà un mosaico di contributi, interverranno anche Natasha Arcifa, l'ambasciatrice dell'anno europeo della gioventù, l'imprenditrice Francesca Bardelli, esponente di distillatori Nonino, e Fabiana Bon, che è la neopresidente di Donne Impresa Confcommercio Friuli Venezia Giulia. Tra i temi sul tappeto anche le patologie femminili, su cui richiamerò l'attenzione l'installazione Giardino Verticale, composta da oltre un migliaio di rose gialle da tutta Italia. Ad Aquileia, in Piazza Capitolo, si comincia alle 20.30, ma l'evento sarà preceduto alle 18 dalla partenza di Bike for Life, un progetto che prevede un percorso a tappe in bicicletta a Firenze, Roma, Napoli e Matera per raccogliere fondi destinati alla costruzione di un centro per la diagnosi della cistinosi nefropatica. Si intitola Afghan Cycles, il documentario sulla storia di un gruppo di ciclisti afghane in lotta per i propri diritti e vittime di persecuzioni in patria. Dallo scorso agosto, infatti, in Afghanistan è stato instaurato il regime talebano, che limita la libertà femminile nello studio, nella vita fuori casa e nello sport. Il documentario sarà proiettato a Pordenone, allo spazio Wow, in via Brusafiera, nei giardini Francesca Trombini, alle 21. Alla proiezione interverranno anche alcune delle protagoniste del documentario, ora rifugiate in Italia e supportate da un progetto umanitario, insieme con la giornalista sportiva Francesca Monzone. A lei abbiamo chiesto di parlarci del progetto umanitario a supporto delle giovani rifugiate. Per queste donne è nato un progetto importante che servirà innanzitutto a farle, come prima cosa, ambientare nel nostro paese. Ricordiamoci che loro vengono dal Medio Oriente e noi ci troviamo in Europa. Di conseguenza per loro è tutto grande, è tutto diverso, ma gli stessi suoni delle città sono molto diversi per loro. Loro vengono la maggior parte dalla regione del Bamiyan, che è anche una delle zone più belle dell'Afghanistan, dove non esiste il concetto di traffico, il pericolo dell'attraversare la strada. Quindi noi pian piano le stiamo facendo abituare a quelli che sono i nostri ritmi. E poi le inseriremo in ambito scolastico, e per tutte quante c'è un progetto per far proseguire il percorso studio. Questa sera vedrete la nostra atleta più giovane e la nostra atleta più grande, cioè Manaz, che è la più piccola del gruppo e che lei tra l'altro era quella più traumatizzata rispetto agli altri, perché lei ha vissuto l'attentato all'aeroporto di Kabul. Lei in quel momento era lì da sola, immaginiamoci una ragazzina di 16 anni che all'improvviso ha sentito un grande botto e si è ritrovata in mezzo a morti e feriti. Lei mi ha raccontato che ha iniziato a correre, a scappare disperata, ed è entrata in una casa senza sapere chi ci fosse dentro. E tra l'altro lei infatti mi ha detto, dice, io sono stata fortunata perché in quella casa potevano esserci dei talebani e io oggi non sarei qui. La più vecchia si chiama Marjan ed è proprio la ragazza che ha subito l'attentato, che porta sul suo corpo i segni dei proiettili dei talebani. Come stai? Non mi hai mai risposto bene, come mai? Ho provato anche a cercarti e non ci sei. Ogni volta che la prendo corre, mi porta sempre oltre. La canzone che state ascoltando in sottofondo si intitola Come stai ed è parte dell'Oro Blue Tour 2022, la tournée del rapper Bresh, che propone i brani dell'album omonimo, già al primo posto della classifica tra i più venduti e al secondo posto in quella dei vinili più acquistati. L'artista genovese, al secolo Andrea Brasi, conta su oltre 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed è noto per il suo stile che racconta la vita quotidiana sulla falsariga della poesia marinaresca e partendo dall'esempio di Fabrizio De André, che Bresh ascolta fin da bambino. Nel 2020 il suo primo disco ufficiale, intitolato Che Io Mi Aiuti, è stato considerato uno degli album d'esordio più belli dell'anno. A Udine, al Castello, porte aperte alle 20 e inizio concerto previsto per le 21.30. Ho provato anche a cercarti e non ci sei. Ogni volta che ti prendo corri, porti sempre. Passiamo allo sport. Fissata la prima data in cui i tifosi di basket potranno vedere dal vivo le squadre regionali impegnate nei campionati di A1 e A2. Trieste e Udine saranno impegnate il 2 settembre al Pala Carnera nel derby di semifinale del Memorial Paietta, quadrangolare che vede impegnate anche la Reyer Venezia e Torino. La squadra di Cividale, nelle stesse date, gioca invece al Memorial Bortoluzzi di Lignano, un quadrangolare cui partecipano anche Forlì, prima avversario dei Ducali, Rimini e i croati dello Škrljevo. Intanto Trieste ha comunicato di aver aggregato agli allenamenti della prima squadra, già a partire dal ritiro di Laško, il centro croato classe 1990 Aleksandar Marciuš. Tesserato per la Stella Azzurra di Roma, Marciuš ha disputato l'ultima stagione regolare mettendo referto 12 punti e 9 rimbalzi di media. Non proporrà regate notturne, ma 8 prove tecniche a bastone. Il campionato italiano assoluto d'altura 2022, in calendario da oggi e fino a domenica a Monfalcone, che è stato organizzato dallo Yacht Club locale su assegnazione della Federazione Italiana Vela. Domani prevista l'inaugurazione ufficiale con l'alzabandiera. Al presidente dello Yacht Club Monfalcone, Germano Scarpa, abbiamo chiesto se tra i 60 partecipanti ci siano anche degli stranieri. Il campionato comincerà giovedì e mentre domani faremo l'inaugurazione del campionato con l'alzabandiera e tutti i concorrenti riuniti per condividere le regole di questo campionato, e si concluderà nella giornata di domenica 28 agosto con 8 prove tecniche che si svolgeranno a bastone. Tra i vostri iscritti ci sono anche degli stranieri? Sì, ci sono anche delle imbarcazioni straniere, sono 4 o 5, non ricordo, ma comunque, essendo un campionato italiano, evidentemente la maggior parte sono barche, equipaggi italiani. Tra l'altro quello che arriva più da lontano arriva da Riva di Traiano. Quali sono le iniziative dedicate alla sostenibilità di questa edizione del campionato? Premesso che il nostro club è uno dei club che hanno aderito anche all'iniziativa che si chiama Ocean Forum, che è un'iniziativa nata in Costa Smeralda per proprio difesa del mare. Bene, noi faremo degli eventi anche culturali per insegnare agli equipaggi la gestione banalmente di quelli che possono essere i rifiuti, di come si mette a posto una barca, banalmente anche il lavaggio della barca senza inquinare il mare, e di quelli che devono essere più propriamente gli atteggiamenti anche a terra di un bravo marinaio, proprio nel rispetto del mare. Alle 7:45 minuti andiamo a sfogliare i quotidiani che oggi trovate in edicola. L'apertura del Piccolo si occupa delle liste presentate per le elezioni del 25 settembre e nell'interno, in 3 pagine, sono elencati i vari inclusi ed esclusi per i 12 seggi regionali. In Taglio Alto l'omicidio stradale di Porcia, in cui si precisa che la soldatessa non era in servizio al momento dell'incidente, e si parla delle differenze sulla competenza giuridica rispetto al caso del CERMIS. L'intervista alla madre del giovane ucciso è ripresa anche dal quotidiano nazionale La Repubblica, che specifica la richiesta di giustizia in Italia, e lo stesso avviene sul Corriere della Sera e sulla Stampa. La fotonotizia dell'edizione di Trieste del Piccolo è per la crisi della Wärtsilä. Attesa nel fine settimana la nave che dovrebbe caricare i motori, al momento bloccati in fabbrica dal presidio dei lavoratori. Capocronaca, l'allarme della Caritas, delle associazioni dei consumatori e delle parti sociali sul caro bollette che soffoca famiglie e imprese. Altro servizio, quello sul bando per la gestione pluriennale delle palestre comunali a fronte di una base d'asta di 258.000 euro. Per la cultura un intervento di Marco Menato, già direttore della Biblioteca Statale Isontina, contrario alla decisione del Comune di eliminare i direttori delle strutture culturali. Il Messaggero Veneto, edizione di Udine, dedica l'apertura alle liste per le elezioni politiche, ma la fotonotizia centrale è sull'incidente di Porcia. Ubriaca la soldatessa statunitense che ha investito il ragazzo, scrive il giornale, che riporta anche l'intervista alla madre di Giovanni. Non posso perdonare, dice la donna. La cosa che mi strazia di più è sapere che si è alzato in piedi dopo l'incidente. Gli amici mi hanno detto che chiamava mamma e io non c'ero. Altri richiami di cronaca in prima: il Messaggero dà conto di un avvistamento inconsueto e che ha allarmato la popolazione nei cieli del Friuli, con due aerei delle Frecce a fare da scorta ad un Airbus nei cieli del Friuli. Era comunque un'esercitazione. Ancora tamponamento tra tre auto a Manzano, code sulla strada, e il progetto di una casa della musica nella cavallerizza dell'ex caserma Osoppo. Questa è la storia che apre anche le pagine di cronaca locale. La fotonotizia del Piccolo sull'edizione di Gorizia è per le scritte vandaliche su muri e porte in via Nizza. Il capocronaca è dedicato alle prossime attività del Consiglio Comunale in riunione a metà settembre e sulla definizione dei capigruppo a fronte di 13 schieramenti. In agenda anche l'elezione del vicepresidente del Consiglio, carica che è ancora vacante. Spazio poi al trasloco del gruppo europeo di cooperazione, che la prossima settimana si sposterà nel Palazzo di Corso Italia, già sede della provincia di Gorizia. Nel servizio anche le varie vicende dell'ente che gestirà i fondi organizzativi della Capitale Europea della Cultura 2025. Da Monfalcone il conto da 55.000 euro ha presentato alle famiglie dei minori che lo scorso anno incendiarono i cipressi secolari del parco di Panzano. Da Savonia lo slittamento dell'apertura della nuova scuola elementare dopo il ritrovamento di un vecchio ordigno bellico nell'area. Simile nei contenuti, con una differenza solo nella veste grafica: la prima pagina del Messaggero Veneto di Pordenone rispetto a quella di Udine, mancano i riferimenti alla cronaca locale, e la tragedia di Porcia apre le pagine dedicate alla provincia. Spazio in prima in entrambe le edizioni è la questione dei presidi, di cui abbiamo parlato nella prima parte del giornale. Anche il Gazzettino, edizione di Pordenone, dà spazio alle parole della madre di Giovanni Zannier, il quindicenne morto a Porcia. In un box il quotidiano veneziano dà conto anche delle polemiche sulle luci spente in strada, misura decisa da alcuni comuni per far quadrare i conti. Ma si parla anche di viabilità, bretella sud di Pordenone, lavori eterni, scrive il giornale, nuovo vertice per chiarire. L'edizione di Udine ha un'impostazione molto simile, cambiano alcuni richiami e il giornale dà spazio in particolare alla querelle sulla stazione di pompaggio della Siota Paluzza, della quale vi abbiamo riferito nella prima parte del giornale radio. Le 7:50 minuti, c'è ancora il tempo per qualche appuntamento. Nella cornice della rassegna Atmosfere letterarie, lo scrittore Pino Roveredo dialogherà con Emily Menguzzato per presentare il suo libro Arturo, un cane di Trieste. A Trieste, all'ex lavatoio di San Giacomo, in via San Giacomo in Monte, alle 18:30. Federico Rossi, presidente dell'associazione e direttore artistico della rassegna Vostanis, presenterà insieme a Giulio Pagotto, giovane collaboratore dei Colonos, le prove aperte di cultura friulana, idee in divenire, in gestazione, che prenderanno forma nei prossimi mesi e nell'anno che verrà. Appuntamento a Villa Caccia di Lestizza, all'agriturismo ai Colonos, alle 21. Il quinto appuntamento della rassegna Un mondo di storie, giunta alla decima edizione, propone un viaggio con la fantasia in Pakistan per condividere fiabe, favole, filastrocche lette da madrelingua in lingua originale, accompagnate da musiche e giochi. L'evento è rivolto ai bambini dai 3 anni, ai ragazzi, ma anche agli adulti. A Trieste, al giardino di Via San Michele, alle 17. Per la musica, la rassegna Armonia in città prosegue con il trio Kandal e il suo repertorio ottocentesco, tedesco e italiano, per flauto, violoncello e pianoforte, a Paderno di Udine, alla chiesa di Sant'Andrea Apostolo, alle 20:45. È composto da archi, pianoforte e bandoneon, l'insieme Lumière, che con la voce dell'argentino Ruben Peloni si esibirà nel concerto Vuelvo al Sur del cartellone della rassegna Carni Armonie, a Comelians, alla Sala L'Alpina, alle 20:30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta da Maria Spezia e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotto in studio, alla guida della parte tecnica Giampaolo Zucchi e Carlo Morello, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11, con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire il quotidiano appuntamento con un classico della letteratura friulana del secondo Novecento, ad opera di Don Giuseppe Marchetti. Alle 11:20 la quarta puntata di La Radio che Pedala. Andremo a scoprire a cui lei è in bicicletta grazie ad un progetto dedicato alla promozione di un'offerta turistica sostenibile in area adriatica. Obiettivo dell'iniziativa: migliorare la qualità ambientale e valorizzare il patrimonio storico e artistico. Alle 11:55 l'appuntamento con la Radio Fotografie, destinato quest'anno al rapporto tra cinema e fotografia. Alle 12:30 20.30, l'edizione meridiana del giornale radio, alla quale vi diamo appuntamento, ma l'informazione dal territorio prosegue anche sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social TGR Rai FVG. A tutti ancora grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.